Il primo è positivo che si parli di crescita, a patto e condizione ovviamente che non siamo all'ennesima melina, perché di meline ne abbiamo viste molte. La seconda, sulle misure, l'impressione ancora una volta è che ci sia un collage, se vogliamo chiamarlo così, di misure minimaliste rispetto allo sviluppo e alle vere partite in gioco. Dico collage, forse già una come dire, una definizione eccessiva, nel senso che qui l'impressione vera è di una miriade piuttosto disordinata di norme. Terza valutazione, e qui mi ricollego anche un po' al lavoro che abbiamo fatto oggi sul 24 ore, io e altri colleghi, mi pare che le imprese in questo momento pensino ad altro, cioè le misure che hanno in mente le imprese sono di tutt'altra efficacia, di tutt'altra forza. Magari in certi casi coincidono i titoli di queste misure. Quando però poi andiamo a vedere che cosa c'è dentro, mi pare che la sostanza sia notevolmente diversa.